Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchiesi. In primo piano i lavori di Ecofin. Stiamo realizzando le riforme in Italia. Come presidente di turno il mio scopo è aiutare tutti i paesi a trovare gli incentivi e la spinta per le riforme. Così ha detto il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Il ministro dell'economia italiano Piercarlo Padoan ha cercato stamani di raffreddare gli animi mentre la stampa continua a dare conto delle tensioni tra Italia e Germania sul fronte di politica economica. Parlando qui a Bruxelles, all'inizio di una riunione dei ministri delle finanze europei, Padoan ha assicurato che non c'è alcuna differenza di vedute tra Roma e Berlino sulla necessità di adottare riforme economiche. Ha ricordato che le recenti puntualizzazioni del presidente della Bundesbank Jens Weidmann sulla politica economica italiana sono quelle di un banchiere centrale, non di un uomo di governo. Il tentativo di Padoan è meritorio. Deve fare i conti però con una classe politica che non fa passare occasione per buttare benzina sul fuoco, apprezzando lo spazio concessole dalla stampa. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha segnato un punto a suo favore a Bruxelles nella lotta contro l'austerità, ma rischia di trovarsi isolato di fronte ad un'eventuale azione di retroguardia della Germania. Lo scrive il Financial Times nella rubrica Global Insight e sottolinea che Renzi potrebbe avere ragione nel dire che l'Italia ha ottenuto un documento che per la prima volta si concentra sulla crescita. Uno degli obiettivi nel semestre europeo di presidenza dell'Unione Europea è di lavorare per la revisione della strategia di sicurezza interna. Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno Angelino Alfano nel discorso introduttivo dell'incontro con i ministri degli Stati membri a Milano. La presidenza sta valutando di sviluppare il dibattito attraverso dei gruppi, ha detto Alfano, portare le conclusioni all'attenzione del Consiglio entro il 2014. Digitale come chiave per uscire dalla crisi. Questo è il filo conduttore del primo evento della presidenza italiana dell'Unione Europea organizzato con il sostegno della Commissione Europea. Oggi a Venezia il Premier Renzi e il Commissario dell'Unione Europea Neelie Kroes. 5 giorni, oltre 100 relatori, più di 30 iniziative tra eventi, laboratori e tavoli di lavoro per tracciare la mappa dell'agenda digitale in Europa. Digital Venice è l'evento con cui l'Italia di fatto apre il semestre di presidenza. Oggi seconda e più importante giornata che vede la presenza del Premier Renzi e in cui viene presentata la dichiarazione di Venezia, un documento che rappresenta il contributo del governo italiano al primo Consiglio dell'Unione Europea sul digitale che si svolgerà ad ottobre. Tra i punti chiave il concetto che non c'è ripresa economica senza digitalizzazione. Secondo alcuni studi, nei prossimi 5 anni l'economia digitale crescerà 7 volte di più rispetto a quella tradizionale e oggi ci sono in Europa 900.000 posti di lavoro vacanti per la mancanza di competenze digitali. You can't think of one economic or social activity anymore without connecting it with digitization. Il digitale, spiega lo stesso commissario Well, Digital Agenda Neelie Kroes, anche lei oggi a Venezia, è la risposta per uscire dalla crisi e creare nuovi posti di lavoro. Questa è la chiave per sfuggire alla trappola della disoccupazione, in particolare quella giovanile. But also talking about the aging population in Europe, it is saying that we are using the new technologies to make it easier to have a decent and independent life as long as possible. Ma occorre pensare anche agli anziani che hanno bisogno di nuovi servizi digitali per restare attivi senza perdere la loro dignità e indipendenza. Gli altri punti che dovrebbero uscire dalla dichiarazione di Venezia sono sicurezza informatica, smart cities, banda larga veloce per tutti entro il 2020, spinta sulle start-up e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24, vi saluta qui Daniele Biacchiesi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.